Buonasera, buona domenica e ben ritrovati sul Stormon Rock. Domenica di intervista e finalmente aggiungerei, sono usciti con una nuova, con un nuovo album, con un nuovo EP da un titolo lunghissimo che dopo ve lo andrò a dire perché è veramente simpatico, tra l'altro, cioè veramente lungo ma veramente simpatico. Ve ne vado semplicemente ad introdurre per com'è la biografia che ho visto su Instagram, anche quella che ho notato che va un po' a rispecchiare quello che è effettivamente l'entità del progetto. Me la sono scritta perché ovviamente non me la ricordavo tutta a memoria e dice: canzoni brutte, suonate male, cantate peggio, ma in compenso pervase da onesta e reale pessimismo. Ciao Tizio! Ciao caro. Questo ce l'abbiamo fatta, dopo riproviamo nell'altra versione, ma intanto per introdurti comunque nel programma. Dicevo, dopo diversi anni che comunque ci conosciamo, mi fa un sacco piacere averti qua ospite e preparare di questo piacere mio, di questo gentilissimo, di questo disco che si intitola Il secondo disco di Dizio, che poi il primo disco non è mai uscito, quindi sarebbe il primo disco che poi non è neanche un disco ma è solo un EP, quindi anche qui va un po' a venire fuori un po' l'ironia che c'è anche nel progetto e quant'altro, però ovviamente ne andremo a parlare tantissimo. Come stai? Anche perché non te l'ho chiesto in questa versione diretta. Tutto bene. Oh, bene. Sì, va meglio, dai. Mi fa piacere. Quindi andremo a parlare di questa biografia che c'è su Instagram, molto simpatica, di questo titolo buttato un po', anche questo molto ironico e molto estremamente lungo. Ma se hai seguito qualche diretta probabilmente sai già di cosa vado un attimo a parlare, questa domanda introduttiva. Yes. Vedo che scossi la testa, quindi probabilmente sai già cosa ti vado a chiedere. Quindi... per dovere di cronaca vado a introdurre effettivamente com'è la domanda. Quindi sicuramente sai dello scioglimento dei NoFX alla fine del 2024 e banalmente ti vado a chiedere cosa sono per te i NoFX. Due fasi per me i NoFX. Vai. La prima fase, cioè io il primo concerto grosso punk che ho visto è stato i NoFX nel 94. Ero un puppi, avevo 15 anni, adesso sono un vecchio, e erano per me stati per un periodo l'apoteosi. Cioè per me NoFX, non dico fossero tutto, ma in ambito punk rock erano tanta roba. Poi devo ammettere che col passare degli anni c'è stato un po' di disinnamoramento, soprattutto per la questione live. Facevo fatica a sopportare tutte le parole, bla bla bla. Non sopporto tantissimo l'estetica sul palco di Alefe. Cioè, ok, fare il buffone mi ci sta, ma mi infastidiva un po', e quando di un'ora di concerto ci sono 30 minuti di canzone, cioè si chiama Let's Talk More Rock, basta. Cioè li sopportavo proprio poco. Detto questo, li ho visti svariate volte, rimango legato al primissimo concerto del tour di Drunk in Public, cioè madonna, proprio tantissima roba. Vabbè, però dai, hanno segnato un po' tutti, diciamo, dai. Clamorosamente. Cioè, senza NoFX ci sarebbe, secondo me, tutti saremmo un po' diversi. Sì, io adesso, perché io ho già fatto questa domanda, me ne sto già preparando un altro che non ti vado a dire, perché dopo non parliamo più di tutto il resto, quindi dopo ci andiamo a infognare in tanti discorsi di musica e quant'altro, che comunque è un programma musicale, è figo, però ovviamente sono qui, ti ho chiamato appunto per parlare di questo secondo disco. Lo chiudo qui perché sennò riprendere ogni volta tutta la trafila, esatto, è abbastanza lunga. Però detto questo, avendo rotto un po' il ghiaccio con Tizio, che in realtà ha anche un vero nome, si chiama Daniele o Gento per i più, e sono qui sempre collegato con Tizio a parlare di questo nuovo album EP. Quindi ovviamente le domande sono un po' qualcuna ironica appunto per il disco. Entriamo subito nel vivo di questo disco, di questo titolo lunghissimo. Come è saltato fuori perché è un po' legato, cioè sia il titolo che la copertina in sé. Ultimamente i gruppi fanno tutte queste copertine nel quali devi andare a cercare il nome del gruppo e spesso il titolo manco c'è. Quindi abbiamo detto facciamo l'opposto, una copertina nera con una scritta fatta a pennarello come se fosse una roba veramente anni 80, scritta alla cazzo di cane. E come lo chiamiamo? La prima domanda è stata: ma è il primo o il secondo disco? È già lì. E quindi... E già lì, e quindi abbiamo detto: boh, allora si chiamerà il secondo disco. E poi è nata tutta la gag di ripetere la parola disco e chiudere con non è neanche un disco, è un EP. Sì, perché alla fine sostanzialmente sono 6-7 brani, quindi sono 6 brani. Sono 6 brani, non è un disco, non è neanche un disco. E quindi è nato così, cioè, facendo i cretini in sala prove, cioè, ci viene naturale fare i cretini. Quindi. Ah, ok, vabbè, dai, buono, buono a sapersi, almeno è nato tutto un po' in battuta. Io mi collego sempre a questo discorso della copertina, perché avendola tirata tu fuori, te l'avrei chiesto comunque più avanti, questo tutta copertina piena con tutto il titolo, io pensavo che a occhio potessi ricordare un po' quella I think my older brothers used to be listening to Leguegon, sì. E non c'entra niente o... No, no, in realtà è nata proprio, cioè, volevamo fare la copertina più ignorante del mondo senza un'immagine. E quindi avevamo un testo lunghissimo, abbiamo detto, ma sai cosa facciamo? Ci cacciamo il testo grande, solo tizio in rosa e vaffanculo. L'ho fatta io, fra l'altro ho avuto un infortunio sul lavoro, che mi sono fatto massacrato mano in mano e dovevo scrivere mentre non riuscivo ad usare le braccia praticamente. Quindi vabbè, un delirio. Un delirio, è stato un delirio anche quello. Fantastico, cioè, fantastico nel senso, no, perché ovviamente ti sei fatto poco, ti sei fatto male, però è una piccola curiosità che salta fuori, alle volte fare queste domande, alle volte dico banali, semplici, però alla fine salta fuori dei discorsi molto simpatici dietro, che magari nelle varie interviste non salta fuori, perché dici sì, no, esatto. Difficilmente salta fuori. Quindi io, dato che è la prima volta che salti, che vieni qua sulla Stormo Rock, sulla Getta Fujiko, l'altra mia curiosità era, oltre a questo titolo molto lungo, è riguardante un po' il nome della band, Tizio. Sicuramente avrei risposto diverse volte a questa domanda, però non avendo... Sì, non è che ci abbia chiesto, fatto chissà quali interviste. Però, vabbè. Va benissimo dirlo. No, Tizio nasce dal fatto che tutti e tre, io principalmente, fatico a sopportare la spocchia di tante band, soprattutto emergenti, che dopo tre concerti si considerano i Misfits. Lo trovo veramente fastidioso, cioè tipo ai live presti il backline e manco ti ringraziano, o... ti ripeto, camminano a 2 metri da terra. E mi sono sempre chiesto, cioè, quando salgo sul palco e mi vede qualcuno che non mi conosce, la prima cosa che si chiede è: ma chi cazzo è sto tizio? E nasce da lì, cioè, nel senso, Fly Down, cioè, nessuno di noi nella vita è mai arrivato. E poi, per mia fortuna, con progetti precedenti ho avuto modo di suonare anche in band fighissima, appunto ho fatto un mini tour con i Misfits e scopri che Jerry Holly è il meglio, super tranquillo, la mattina mi ha chiesto che lavoro facevo, mi ha spiegato che sua mamma è una gattara, e poi suono con una band di ragazzotti, magari marchigiano, che, scusa il termine, se la sborra tutto il giorno. No. Ma dai. Cioè, sei un tizio a caso, sì. Sei un tizio a caso, cioè, per il pubblico, quindi aspettiamo a tirarcela, secondo me. No, no. E nasce da lì. No, no, no, certo, giustissimo come concetto e molto, come dire, onorevole la questione della serie. Ok, suono, ho un progetto, suono da qualche parte, ho suonato da parte, come dicevi tu, anche con i Misfits e quant'altro, quindi tanto di cappello, però alla fine sono una persona comune. Ecco. Esatto, alla fine è un po' quello, quindi... capisco il titolo, il nome della band e capisco ovviamente anche tutto questo tuo discorso. Detto questo, ci andiamo effettivamente ad ascoltare anche un brano che ho scelto io, perché mi hai dato carta libera su quelli da mettere, e ho messo come primo Buoni, Belli e Bravi. Ho visto che di recente su Instagram stavi dando la descrizione su come è nato un po' il concetto dei vari brani. Adesso buoni, belli, bravi, non so se l'avevi già tirato fuori. Sì, è stato uno degli ultimi, quindi ho l'altro ieri, una roba del genere. Ah, ok, allora questo mi è scappato. Quindi se me lo vuoi ridire brevemente... Ma semplicemente che in questo paese siamo tutti belli, buoni e bravi. Non c'è mai nessuno che sbaglia. Cioè, nel senso, io mi sento un po' coglione perché in realtà io sbaglio e semplicemente lo ammetto. Cioè, se faccio una cannocchia l'ammetto, ma perché secondo me tutti sbagliamo. Dal momento che fai qualcosa sbagli. In questo paese non si può mai ammetterlo di aver sbagliato. E se lo ammetti sei un coglione, perché dopo passi, ma dovevi far finta di niente. È una roba che io non sopporto. Cioè, secondo me è una delle ragioni per cui questo paese poi va a rotoli, perché ci abbassiamo tutti verso il basso. Cioè, troviamo un livello e poi andiamo sempre a scavare più in basso perché c'è qualcuno che fa peggio di noi. No, nella vita si sbaglia. Personalmente continuo a sbagliare, lo farò probabilmente finché campo. L'importante è cercare di correggersi, si cade mille volte nella vita e, come diceva Rocky, non è importante quante volte cadi, ma quante ti rialzi. E tutto qua. Cioè, non sopporto il fatto di non poter sbagliare, perché sennò uno è una persona di merda. Sbaglia nella vita. Sbaglia. Okay. Ne abbiamo una, sbaglia. Ok, allora guarda, mi trovi completamente d'accordo, quindi siamo due i coglioni, come dicevi tu, perché anch'io la penso esattamente così. E rientriamo sempre collegato con Tizio, 333-180-94-94, se qualcuno volesse mandare un messaggio tramite WhatsApp sul tablet che è qui davanti, non esiti a farlo, perché posso tranquillamente leggere il messaggio, anche semplicemente di saluto per chi sta ascoltando. Come dicevo, ci andiamo ad ascoltare qualche brano, altri due brani più avanti, per quanto riguarda il nuovo album di Tizio, nuovo EP di Tizio. E come avevo introdotto un attimo il discorso di band di Tizio con questa frase "canzoni brutte suonate male, cantate peggio, ma in compenso pervase da onestà e reale pessimismo", anche quello, come dicevo, effettivamente, se non sbaglio, racchiude un po' l'essenza di quello che vai a raccontare, andate a raccontare nei live e nei brani. Sì, allora, prima di tutto non prendersi troppo sul serio, cioè se pensassimo veramente di essere improponibili non suoneremmo, cioè non è che ci godiamo a farci compatire sul palco. Chiaro che abbiamo questa teoria di paragonarci sempre a chi reputiamo molto meglio di noi, quindi cioè, se devo paragonarmi a una band che secondo me fa cacare, cioè è facile essere più bravi, però allora, non mi trovo, cioè tendo sempre a cercare di migliorare me stesso paragonandomi a chi reputo migliore di me, appunto. E il fatto dell'onestà intellettuale, perché ho una certa età, ormai ho passato i 40 da un po', e di raccontare, cioè questo progetto qui lo uso per dire esattamente quello che voglio dire, senza filtri, me ne frega niente, ripeto, ho una certa età, non ho più bisogno di leccare culi o di stare sobrio con i testi, dico quello che mi va, se ti va bene bene, se non ti va bene tanto non ci devo campare, capito, con Tizio, quindi amen. Sì, no, non vabbè, mi tange. Ti diverti e spiattelli effettivamente. Basta. Quello che è per te una questione sociale, sì. o personale, bravissimo, quello più che onesto. C'è una data di release, ne parlavamo un po' prima, questa data del 14 marzo con Tizio Gigantesco, per adesso ovviamente sempre in modo ironico, comunque headliner a chiudere questa serata al Vidia. In compenso ci sono una marea di gruppi, se penso che cosa suona, tipo a mezzogiorno come l'Indipendente di una volta, che ora inizia? No, inizia in realtà alle 9 di sera, perché facciamo due palchi, un palco elettrico e un palco acustico, che si alternano di continuo, non ci sono silenzi, cioè quando finisci il palco acustico inizia quello elettrico, quando finisce l'elettrico inizia l'acustico. Ok. Lo facciamo, è una formula che il Vidia aveva già fatto in primissimi anni 2000 e quindi abbiamo deciso di copiarla, è sempre andata strabene, la gente si diverte perché alla fine non hai rotture di coglioni, di soundcheck, è un line check velocissimo, si parte e si va. Quindi dalle 9 di sera fino alle 3 del mattino, perché poi dopo i vari concerti ci sarà anche un DJ set del Not a Phase, una emo night, diciamo, e quindi dai, dovrebbe essere un party, cioè no, oltre che il release è proprio un party, una festa, ci sono un sacco di band di amici, quindi dovremmo divertirci. No, buono, infatti quando ho letto inizio 21 ho detto boh, qua sono 10 gruppi, qua tirano le 8 di mattina, cioè se devono, conoscendo il video, no. Ah, invece con questa formula è molto, molto intelligente, ci sta. Doppio palco. Come dicevo, 14 marzo, Tizio con Menagramo, T-Rex Quo, adesso questi sono i primi che mi ricordo, e tanti altri, per celebrare questa uscita fisica effettivamente di questo secondo disco di Tizio. Altre date già fissate che puoi dire? Allora, sì, che posso dire? Credo no. Una sì, il 25 aprile saremo a Ferrara, sempre con i T-Rex Squad, per il Festival dell'Underground Stars Records. Per il resto sono tutte date ancora da annunciare, avremo qualcosa nelle Marche, qualcosa in Piemonte, non tantissimissimo perché poi parte la stagione estiva e non tantissimo perché noi abbiamo sempre un po' di problemi a beccarci per suonare tra il lavoro di Shelly, le famiglie, insomma è un po' un casino, però qualcosa salta fuori. No, va bene. A breve ne annunceremo tutte. No, bene, buona sapersi. Quindi nel caso seguite Tizio sui vari social, che sicuramente nei prossimi giorni salterà fuori qualcosa. Seconda parte delle Stormore Rock, sono sempre qui collegato con Daniele Gento di Tizio a parlare appunto di questo secondo disco album. Abbiamo ascoltato già un paio di brani, poi dopo ce ne andiamo, anzi un brano per essere precisi, poi dopo ce ne andiamo a ascoltare altri due con diversi featuring. Introduzione fantastica, perché così mi collego chiedendo come sono nati questi featuring. Allora, andiamo in ordine. Il primo, cioè quello con John Tanfo della farmacia comunale, è perché John è stato uno dei primi fan di Tizio da sempre, è un amico grandissimo, ci invita sempre a suonare al Drunk in Public e quando abbiamo pensato a una featuring, chi meglio di lui? Cioè andiamo a suonare a casa sua, cioè a casa sua, sì, al Drunk in Public, ed è come essere a casa. Poi T-Rex Squad con Underground Stars Records ci fa uscire il disco, è una band che io apprezzo un sacco per la questione impegno politico e tutto quello che fanno per la scena, perché comunque vedere quanto si sbattono per tutta la scena punk o i street punk, tutto quello che è incredibile. E l'ultima è il Menagramo, molto più egoisticamente, perché credo che Wally ed Henry siano due delle voci più belle che abbiamo nel panorama italiano. Già Wally da solo ha una voce secondo me incredibile. Wally ed Henry sono, mamma mia, io ti giuro, quando ho sentito la loro parte sul nostro pezzo ho avuto la pelle d'oca e ho detto con gli altri: no ragazzi, mi vergogno a cantare prima di loro. È incredibile. No, anche perché poi a livello di voce sporcata, bene o male, sono tre voci che bene o male si uniscono abbastanza bene, anche perché tu comunque quando vai a cantare nei vari brani c'hai questa voce, non sì, dico sì, graffiata, grattata, quindi un po' non, no, è quella, è il clear classico, quindi ci stanno anche le loro voci comunque a chiudere tutta la baracca. Ti vado a chiedere anche, dato che un altro brano che ho scelto appunto per buttare in mezzo qualche featuring è quello dei T-Rex Code con Mai. Mai era già uscita come spiegazione. No, come spiegazione sì, e la facciamo dal vivo da un tot. È un pezzo che dal vivo facciamo già da un anno e mezzo. Ah, ok. Allora sì, è stato il primo pezzo nuovo realizzato. Va bene. Vuoi dire qualcosa prima di lanciarlo? Ma niente, che la ragione per cui ci sono i T-Rex Squad, perché è il pezzo forse politicamente più impegnato di questo EP, e non è, cioè dopo vabbè, chi ascolterà il testo lo capirà, non è che ci siamo trattenuti molto. Siamo lanciati. Come in tanti altri argomenti comunque. Giustamente, senza, come si dice, senza pile sulla lingua. Noi la pensiamo sì, così, esatto. se tu la pensi diversamente, ben accetto, perché ovviamente non tutti pensiamo nello stesso modo. Però questo argomento qua, se non la pensiamo in certo modo, secondo me è grave. È un grave problema, esatto, è un gravissimo problema. Rientriamo sempre collegato con Tizio a parlare appunto del primo disco, secondo disco, EP e quant'altro. Adesso andatevi a sentire, perché è veramente intelligente come cosa, è buttata giù molto bene. Però andando avanti, qualche passo indietro, col fatto che avevo visto che negli anni, e per quello ho aspettato anche chiamarti effettivamente qua in diretta per un'intervista, non avendo qualcosa di, passami il termine, concreto con un album o un EP, qualcosa di fisico, però c'erano tutti questi singoli che piano piano uscivano e mi sono chiesto, pensando, ho detto cosa gli posso andare a chiedere. Banalmente, perché non hai preso tutti quei 5 o 6 brani o singoli, messi tutti insieme, dici: bella raga, questo è l'EP, lo volevamo fare. Ok, cos'è andato storto? I tempi, eravamo arrivati lunghi coi tempi, cioè nel senso che tanti brani che poi abbiamo fatto uscire come singoli successivi erano passati, lasciami il termine, cioè erano brani che magari non facevamo già più in scaletta dal vivo, quindi abbiamo detto: li mettiamo lì. Alcuni non li abbiamo neanche messi lì in realtà, certo abbiamo altri brani registrati, ma non lo sentivamo più nella contingenza del momento, cioè col fatto che Tizio è nato durante la pandemia, chiusi in casa, non ci trovavamo il significato vero e proprio di tirare fuori un disco fisico. Stavamo già lavorando ai pezzi nuovi, quindi abbiamo detto: ascolta, aspettiamo, li buttiamo fuori così come viene e poi ci pensiamo al prossimo giro. Ah, ok, no vabbè, ci sta ragionata. Però guarda, ultimamente ho notato che molte band tirano fuori il disco, Poi casualmente 2 mesi dopo salta fuori questa versione deluxe con dei brani in acustici, quindi volendo potresti fare il secondo disco di Tizio, che poi il primo non è disco, sì. Poi ci metti quei 6 brani lì e più ci metti quelli vecchi, che così sì, vai, è un'opzione, è un'opzione, tieni in considerazione per rompere i coglioni la gente. Esatto, alla fine dici, oh, io l'ho fatto, poi se lo vuoi comprare bene, poi dopo si vedrà di conseguenza. Però l'altra cosa che ho notato, ovviamente intervallato tra i vari singoli, c'erano un sacco diverse cover che avevate tirato, sì, fuori. Anche quello doveva uscire su un supporto fisico. Ah sì? Ma poi non l'abbiamo fatto. Cioè, praticamente erano 6 brani, abbiamo fatto un pezzo di Pancras, Persiana, Classe Criminale, The Roser, Scendone, Pornolista. E dovevamo fare uscire una musicassetta con questi 6 brani. Avevo già preparato la copertina come le musicassette scritte quando eravamo bambini, e poi non l'abbiamo fatto. No, allora questa no, però questa devi tirarla fuori, questa almeno va bene. Questa è la cassettina è old school, quindi essendo anch'io poco più giovane di te, perché comunque io ne ho 41, quindi non è che sono poi tanto lontano. Sei poco più giovane di me. Tanto lontano da te, quindi questa cosa l'apprezzerei tantissimo. Poi anche perché poi sono delle cover che sono più che conosciute anche a livello di nome, e ti chiedo semplicemente come sono venute fuori queste cover da poter rifare. Allora, avevo scelto una decina di brani, uno per ogni band, e poi, parlando anche con i Decelli, abbiamo guardato le più fattibili e le più tiziosabili. Cioè, nel senso, cazzarci le tastierine, cercare di riarrangiarle un pochetto, e quindi la scelta finale è caduta su queste 6 qua. Ah, va bene, ok. Però c'è anche una cover, c'è proprio rifatta Bandiera Gialla, anche quella era molto... Sì, Bandiera Gialla è nata perché io la faccio sempre, tipo, penso da quando ho 14 anni, tutte le volte che suono dal vivo, durante il soundcheck cantavo Bandiera Gialla, non mi chiedere perché sono un cretino. A un certo punto abbiamo detto, non avevamo una cover, facciamo Bandiera Gialla. Guidino me l'aveva sentita fare 50 volte con i Dreamy Dead, vabbè, facciamo sta cazzo di Bandiera Gialla. Nel frattempo ho sentito Warhols degli Sludder, gliel'ho proposto e Warhols mi ha detto questa frase: Bandiera Gialla è la prima canzone pop punk della storia. Questa risposta qui ho detto, cazzo, è un fottuto genio, facciamola. E in 3 giorni avevo buttato giù la cover, l'abbiamo registrata, gliel'ho mandata, lui l'ha registrata, credo addirittura la sua voce è registrata, non so se con un microfonino in casa davanti al PC, senza nessuna scheda audio, niente, alla cazzo. È proprio una delle robe più punk che abbiamo mai fatto. Fantastico, buttici dietro anche questa e siamo tutti contenti. Cosa di sgoccio di Stormo Rock, ultimi 2 brani di esposizioni, ma sempre collegato con Tizio a parlare di questo EP. C'è qualcosa che, a parte i brani vecchi e questi nuovi, c'è qualcosa che è rimasto un attimo indietro della serie? Ok, buttiamo fuori qualcosa perché effettivamente ne abbiamo bisogno, ce n'è bisogno di registrare qualcosa, ma c'è quel 1-2 brani che sono rimasti un po' fuori dalla scaletta e sono già pronti da rivisitare e sistemare. Allora, no, abbiamo, cioè non che sono rimasti fuori dalla scaletta, ma nel tutto l'iter di produzione del disco, quindi registralo, fai le copie, organizza sto release party, in realtà abbiamo già un'idea per 2 pezzi nuovi, cioè sono solo da finire di arrangiare e abbiamo proprio un'idea di un mini concept di 2 pezzi. Io vorrei far uscire un 7 pollici con 2 pezzi, sullo stesso argomento visto da 2 prospettive diverse. Ah beh, interessante. È una roba a cui tengo un sacco, perché tra l'altro è un argomento che mi interessa molto, e quindi speriamo di riuscire a farlo. Piccolo spoiler, puoi dire l'argomento o aspettiamo i 2 brani? I Senza Tetto. Okay. Il problema del senza tetto e del diritto ad avere un tetto che in Italia non c'è più. Ok, molto, effettivamente molto toccante, molto pesante anche effettivamente come argomento. Buono, come dicevo prima nella prima parte, tutto magari buttato in ironia, ma con modo intelligente, esatto, senza andare ad offendere chi per no, cosa, ma proprio l'opposto, è per sensibilizzare al, esatto, fatto che è un argomento che mi tocca parecchio, perché comunque li vediamo, cioè sappiamo qual è la situazione in questo momento in Italia, ma non solo in Italia, basta esilare nel resto del mondo, e lo vedi che i senza tetto aumentano, le persone in grave difficoltà economiche che magari sì hanno un tetto ma fanno fatica veramente ad arrivare alla fine del mese, come si diceva una volta, secondo me stanno aumentando esponenzialmente, invece di arrivare a uno status quo decente stiamo sprofondando. Chi ha tanto ha sempre di più e chi ha poco ha sempre di meno. Sì, sì, purtroppo è quello che si da sempre, purtroppo c'è, cioè, questa cosa: il ricco è sempre più ricco, certo, e il povero è sempre più povero. È sempre più povero. E il ceto medio praticamente non esiste più. Da quello che purtroppo frasi fatte, ma purtroppo è la verità, è quello che stiamo passando in questo momento. E come dicevo, sono effettivamente arrivato addirittura ad arrivo con Tizio, quindi comincio con i ringraziamenti. Grazie della disponibilità di essere stato qui con me in quest'oretta. Grazie a te. Grazie a te. Grazie, gentilissimo. E se hai visto qualche diretta fino alla fine, visto qualche intervista fino alla fine, saprai anche con me vado a chiudere bene o male la puntata. E quindi ti vado a chiedere, con la mia domanda a scaricabarile, c'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti dire? Ma in realtà mi hai fatto un sacco di domande, cioè nel senso, di solito non chiedono il significato dei brani, e per uno che butta tutto sui testi è abbastanza bizzarro. Quindi questa cosa qui ti ringrazio un sacco. No, così non mi viene in mente niente di... Me l'ero anche preparato, in realtà, che ho detto, questo non me lo chiederà, ed era il nome Tizio. In realtà, vacca, poi me l'hai chiesto. Quindi non lo so, non lo so, no. No, vabbè. Hai chiesto tutto, sei stato il meglio. Vabbè, gentilissimo, troppo, così è troppo. Però no, va bene, ti ringrazio veramente tanto. So, sì, perché bene o male so che c'è quella volta che dici: ah, sai, volevo parlare di questo. Non è mai capitato il post, no? Che qualcuno mi avesse chiesto: ah, non ho mai chiesto questo. Quindi a scanso di equivoci lo chiedo io prima, esatto, che così mi vado a chiudere la puntata e so come chiudere la puntata. Detto questo, ti vado semplicemente a dire, se vuoi dire qualcosa per quanto riguarda Domenica Italiana, poi ci salutiamo, che è il brano che va, sì, a chiudere anche questo è un testo, insomma, abbastanza spinto da un punto di vista della terminologia, diciamo, alla frase a cui sono più affezionato in tutti i testi di Tizio, che è: domenica mattina in chiesa e poi faccetta nera al canta tu. Olè. Sono mega fiero di questa frase e niente, è il pezzo preferito di Guido. Vi dico questo, ve la butto lì. Ok. È il pezzo preferito di Guido. Ok. E basta. Che altro dirvi? Che ci vediamo, spero di vedere più gente possibile al Vidia il 14, non tanto per noi, per i release party, ma perché nel 2026 fare un locale come il Vidia, che permette a delle band indipendenti di creare questa data con 9 band, il DJ set e tutto, secondo me è tanta roba. Ricordiamoci che in Italia i locali stanno chiudendo tutti. Cioè, 20 anni fa c'erano le 10 volte i locali che ci sono adesso. È difficile, cioè ci si lamenta spesso sia da spettatore che da band di come si comportano i gestori dei locali. Una volta che c'è qualcuno che crede nei progetti musicali, secondo me gli va reso merito. Quindi ripeto, ne abbiamo parlato prima, il Rabbo con il Red Velvet Corazon, esatto, John con il Drunk in Public. In questo caso dobbiamo veramente ringraziare tantissimo Libero per l'opportunità che ci ha dato. Ok, parole giustissime. Come ti dicevo, sono arrivato finalmente addirittura d'arrivo. Ti ringrazio di questa ora passata con me. Ci vediamo alla prossima. Grazie mille, un abbraccione. Ciao, ciao. Ciao, bello. Ciao, e a conclusione della puntata, come al solito, prima del brano, buon punk rock a tutti.